Allora, le novità di quest'anno sono le ospitalità di alcuni artisti internazionali, che però sono sempre legati all'identità profonda del territorio. Cioè, ci sono due progetti internazionali affidati ad artisti greci e un artista colombiano, che però vive a Brisighella, quindi nei nostri territori, che indagano in maniera del tutto personale, con linguaggi performativi, arti visivi e suono, i nostri calanchi, che sono sempre il soggetto principale del nostro festival, naturalmente. I nomi? Allora, l'artista che ha vinto un progetto europeo per fare questo lavoro si chiama Zoe Drakopoulos, è una importante artista greca che lavora con la performance, e poi c'è un musicista che ha captato i suoni del sottosuolo dei Calanchi, li ha amplificati. Sarà un lavoro molto bello, che si chiama Gheorghe Moraitis. E poi c'è un artista colombiano che si chiama Jorge Sandoval, che vive a Brisighella, ha deciso di vivere nel nostro territorio, ed è molto interessante perché parallelamente a queste performance facciamo anche una mostra che si chiama Azzurro Fragile, che ormai conta già diversi episodi nel corso degli anni, e in questa mostra riusciamo ad avere una presenza sia di artisti locali, ma anche di rilievo internazionale, ma anche artisti internazionali che sono diventati artisti locali perché hanno deciso di trasferirsi in Romagna. Quindi, come Sandoval, c'è anche Noriko Yamaguchi, che è un artista giapponese, oppure Oscar Dominguez, che è un artista argentino che da tanti anni vive a Faenza. Quindi coniughiamo l'aspetto tipico del territorio, con tanti artisti anche del nostro territorio, anche storici, con queste nuove produzioni di opere non solo locali ma internazionali. Quali tipologie d'arte sono ospitate? Dalle più essenziali, cioè, perché c'è un ritorno un po' a livello globale, no? Alle tecniche proprio essenziali dell'arte, ad esempio il disegno. C'è un artista molto noto, un artista romagnolo molto noto nel panorama internazionale della ceramica, lui si chiama Andrea Salvatori, ad esempio, che ha cominciato 2 anni fa un lavoro certosino di disegno sul calanco. Sta disegnando da tutte le angolazioni possibili tutti i calanchi, quindi avremo un archivio artistico dei calanchi della Romagna faentina ad opera di questo artista, quindi che dalla ceramica è passato al disegno, la pittura naturalmente e ovviamente la scultura in ceramica, che è la cosa tipica delle nostre zone, non solo Faenza, ma anche la città di Imola, ad esempio, ha tradizioni in questo senso. È la terza edizione, qual è il filo rosso che unisce, se c'è, tutte queste edizioni? Il filo rosso, volendo fare una sintesi, direi, è la natura rivissuta dalla cultura, cioè praticamente l'espressione culturale che si specchia nel territorio, nella natura, e questo vuol dire rivolgersi a due pubblici, perché hai il pubblico dell'arte che magari conosce un po' meglio le morfologie del territorio, ma c'è anche tutto quel pubblico interessato alla natura, allo sport, anche ai trekking, alla bicicletta, eccetera, che è incuriosito dai contenuti culturali che noi inseriamo nei tradizionali, nelle passeggiate, negli itinerari, nei trekking. Quindi cerchiamo di mescolare un po' i due pubblici per fare in questo senso proprio un lavoro di ricerca culturale, ecco, di diffusione più ampia possibile. Le date, gli appuntamenti. C'è tanto entusiasmo attorno a questo festival che abbiamo dovuto espanderlo addirittura in 2 periodi. C'è un periodo tra giugno e luglio, che partirà dal 20 giugno. Il primo evento, diciamo, del festival sarà il 20, poi il 21 e il 24, fino al 4 di luglio. Poi ci sarà una ripresa autunnale, dal sottotitolo L'autunno si posa sui Calanchi, in cui ci saranno altri eventi dal 19 settembre fino al 26. Ci saranno delle sorprese? Sì, ci saranno anche delle sorprese, appunto perché ci sono degli elementi che accadranno all'interno di queste performance che sono fortemente inediti. Anche adesso non voglio svelare troppo, però ad esempio daremo la possibilità di visitare i calanchi in orari nei quali non sono mai stati visitati, come per esempio orari notturni, quindi insomma non mancheranno.